rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, bentornati alla nostra rassegna stampa europea. Settimana scorsa non ci siamo sentiti, ma rieccomi qua. Questa settimana e forse anche quella precedente si sono svolte delle elezioni importanti e quindi è un po' da questo che vorrei partire. Naturalmente mi riferisco alle elezioni in Polonia e a quelle in Turchia, che hanno riservato notevoli sorprese. E allora dal sito voxeurope.eu, che come dico sempre fa un meritorio lavoro di monitoraggio anche da lingue che non sono facilmente accessibili, come in questo caso il polacco e il turco, prendiamo per esempio una sintesi dei commenti fatti dai giornali polacchi sulle elezioni. Un po' il sunto che appunto Vox Europa ha fatto di queste opinioni è: i polacchi hanno voluto il cambiamento e uno grande. Come probabilmente molti di voi sanno, di voi ascoltatori sanno, c'è stata una svolta, una decisa svolta conservatrice in Polonia. I segnali c'erano stati, avevamo visto tutte le reazioni anche molto molto dure sull'immigrazione, per esempio con posizioni di estrema destra, ma non è soltanto sull'immigrazione che ha vinto il partito conservatore, ci sono anche ragioni economiche. E allora per esempio appunto Vox Europe sintetizza che tutta la stampa polacca ha osservato come per la prima volta nella storia della Polonia democratica un partito, gli euroscettici di Diritto e Giustizia, ha ottenuto la maggioranza assoluta e sarà in grado di governare da solo. Perché questo è l'altro grande tema che in parte è legato all'immigrazione, cioè l'euroscetticismo che nell'ultimo anno è montato molto in Polonia. Per esempio il direttore del quotidiano conservatore Trzech Rzeczpospolita Bogusław Cerabota definisce il risultato ottenuto da questo partito un pesante KO non solo per la piattaforma civica, cioè il partito di centrosinistra al potere, ma per l'intera compagine politica. E il vice direttore della Gazeta Wyborcza, che invece è un quotidiano più di centro-sinistro, comunque meno, con posizioni meno estreme di quello che abbiamo appena citato, teme che appunto questo partito che ha vinto, il PS, riesca a ottenere abbastanza consensi in un Parlamento, sono necessari 3/5, addirittura cambiare la Costituzione, perché il principale obiettivo, secondo appunto il vice direttore della Gazzetta, che si chiama Jarosław Kurski, è di mettere a repentaglio la democrazia in Polonia, e per questo invita gli oppositori a questo partito a mobilitarsi e rendersi conto di quanto grave sia la situazione. Moltissimi altri commenti, dobbiamo un po' osservare, forse gli allarmismi non sono giustificati, e così dico sempre e ci credo veramente difficile giudicare dall'esterno. La Polonia ha avuto un ingresso forse un po' affrettato secondo molti nell'Unione Europea, all'inizio ha avuto grandi vantaggi, poi si è ritrovata con i problemi dell'euro che abbiamo anche in Italia, il potere d'acquisto limitato, quindi sicuramente questo partito ha, soprattutto in campagna elettorale, ha fatto grandi proclami di appunto euroscetticismo, però vediamo, forse non è in pericolo la democrazia in Polonia, naturalmente ce lo auguriamo. A proposito delle altre importanti elezioni, forse qui la sorpresa è stata ancora maggiore, nessuno si sarebbe aspettato una vittoria così schiacciante del partito di Recep Tayyip Erdogan. Il suo partito è l'HPP, vi ricorderete, erano state fatte delle elezioni il 7 di giugno, in quel caso poi non c'era stata una netta vittoria del partito di Erdogan e quindi si era andato nella impossibilità di formare un governo a elezioni anticipate che si sono tenute il 1 novembre, con tutte le polemiche che forse avrete seguito. Erdogan addirittura, nella speranza che più persone andassero a votare con la luce, ha spostato la reintroduzione dell'ora legale di 2 settimane rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, e l'ha fatto proprio di sua spontanea volontà. E tra l'altro lì poi i giornali riportavano nelle scorse settimane che appunto, come in tutta l'Unione Europea, in tutti i paesi del mondo dove esiste la differenza tra ora legale e ora solare, era stato tutto cambiato. Vi ricorderete nella notte tra il 23 e il 24 di ottobre, o il 24 e il 25, adesso non ricordo esattamente, comunque tutti gli computer, la maggior parte dei computer mondiali si erano risettati, quindi in Turchia c'era un'ora ufficiale, poi c'era l'ora di Erdogan, così era stata definita. In ogni caso appunto anche qui tanti commenti, per esempio il quotidiano kemalista Cumhuriyet ha intitolato "Vince la paura". È stata un'interpretazione molto diffusa di questo voto. Erdogan ha fatto, ricorderete, anche il terribile attentato con più di 100 morti di circa 4 settimane fa, Erdogan ha fatto molta leva sul fatto di essere l'unico che, anche magari di fronte poi a opposizioni che ai più progressisti tra i turchi non piacciono, però è riuscito a convincere tutti di poter essere l'unico che appunto garantisce una certa sicurezza e stabilità al paese scosso continuamente da attentati terroristici di vario genere. Vabbè, cambiamo un po' argomento, perché comunque poi, come vedremo, sono situazioni, quella della Polonia e quella della Turchia, che seguiremo con grande attenzione, e quindi passiamo a un giornale di Bruxelles, The Standard, che torna sulla, l'abbiamo fatto anche noi 2 settimane fa, un po' sull'immagine generale della Germania e sui danni che ha avuto questa immagine con lo scandalo Volkswagen, con il grande costruttore di auto che aveva da poco superato la Toyota, era diventato il numero uno al mondo. Adesso gli ultimi dati sulle vendite l'hanno già fatto retrocedere, sappiamo tutti, lo scandalo delle centraline truccate per le emissioni. Scrive Dominique Minten: da quando Angela Merkel ha lanciato la transizione energetica, la Germania è stata considerata uno dei paesi leader nel mondo in tema di utilizzo delle energie rinnovabili, ma la transizione verso un'economia verde sostenibile non è priva di ostacoli. E anche in questo caso una dettagliata analisi di tutti i proclami che la Germania ha fatto in campo energetico, e che poi, se poi si va veramente a vedere, è vero, ci sono molti pannelli solari, con questo paradosso un po' che a volte viene sottolineato del fatto che ne ha di più per abitazione di quelli che possono avere paesi come l'Italia, la Spagna, a cui naturalmente uno pensa, soprattutto per quanto riguarda il nostro sud, dovrebbero essere molto più diffusi perché abbiamo più sole. La Germania ne ha tanti, però ci sono anche stati degli effetti indesiderati, e comunque appunto tutti questi dati andrebbero un po' controllati. Direi che c'è un po' una corsa, forse anche esagerata, adesso a mettere un po' in dubbio tutto quello che dice la Germania, come se lo scandalo Volkswagen avesse un po' innescato un atteggiamento diverso e una fiducia diversa nei confronti della Germania, appunto dei tedeschi. A proposito di Germania, la Süddeutsche Zeitung ha pubblicato una intervista alla commissaria europea all'industria Elzbieta Biemkowska, che proprio alla luce di quanto è successo delle irregolarità della Volkswagen, e tra l'altro ricordo, l'avrete seguito sui giornali, che lo scandalo non è per nulla chiuso, sia per quanto riguarda tutti i possibili risarcimenti che la Volkswagen dovrebbe fare, sia perché non è detto che i modelli identificati finora siano gli unici che avevano queste centraline truccate. Tra l'altro la Volkswagen ha tanti marchi nel suo portafoglio, e appunto si sta estendendo l'indagine ad altri marchi. E allora appunto la commissaria all'industria ha annunciato che ci potrebbero essere presto dei controlli più severi sugli enti nazionali, che dovrebbero a loro volta controllare, in questo caso per esempio, tutte le misure per misurare le emissioni, non soltanto delle automobili ma di tutta l'industria, perché per quanto riguarda le emissioni CO2 i sistemi di abilitazione degli stati membri hanno fallito. In futuro vogliamo controllare e verificare se gli enti nazionali lavorino in modo appropriato, quindi ulteriori controlli da parte di Bruxelles. E qui già vedo le proteste di alcuni degli euroscettici che anche da noi ci sono e che da sempre un po' osteggiano questa esagerata volontà di Bruxelles di controllare un po' tutto, di dare delle linee guida su tutto. A proposito della grande questione dell'immigrazione, questa settimana non abbiamo parlato tanto, e forse arrivando l'inverno e il tempo più meno mite, il clima meno mite anche in Africa, forse le traversate diminuiranno, ma io cercherò comunque sempre di monitorare la situazione tramite i giornali europei. Ma appunto questa settimana El País ha ospitato un'intervista del nostro ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che ha proposto che sia addirittura la Corte Penale Internazionale a intervenire contro gli scafisti, cioè questi uomini, forse ci sono anche delle donne tra loro, ma la stragrande maggioranza sono sicuramente uomini senza scrupoli, che organizzano e si arricchiscono con il traffico di esseri umani. Per esempio, in questo caso stiamo parlando del corridoio del Mediterraneo, ma sappiamo che l'equivalente degli scafisti esiste anche per gli altri corridoi, quelli che passano per esempio per i Balcani. E allora in questo articolo il ministro sottolinea come la responsabilità delle tragedie dei migranti, delle morte dei bambini e dei profughi lasciati rinchiusi nei barconi fatti affondare non è solo da addebitare a guerre e carestie. Ci sono responsabili in carne e ossa, e sono i criminali che organizzano il traffico di esseri umani, sono gli schiavisti del XXI secolo, proprio proprio così, ha detto Gentiloni, e contro questi criminali operano giurisdizioni diverse, forse per questo sarebbe più efficace che una volta individuati venissero appunto giudicati dalla Corte Penale Internazionale. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi per questa settimana, ci risentiamo la settimana prossima con tutti questi temi e magari anche di nuovi. Intanto ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.